casa prendi cose a caso. Caso vuole che sia poche cose. Nel cassetto giusto le stoviglie, per la cervicale due pastiglie, forse tre. Hai trovato quel cartone scocciato, con in scatolato il tuo passato. Ma quanta polvere, quanto hai scordato, quei dischi con dedica, un mercatino dell'usato. Dietro le spalle tutta la tua vita, che sei smarrita appena l'hai capita, e quella mail nemmeno l'hai spedita. L'avessi fatto non sarebbe finita, ma poi nemmeno iniziare. Dentro il bicchiere della Coca-Cola, una ciliegia di marzapane, una rosa. Un reggiseno, chi l'ha mai scordato? Un piatto consumato, un biglietto di un concerto saltato. Che se non c'è la via d'uscita, cosa serve questa vita? Non rimandare all'indomani quel che non puoi fare oggi. Almeno che tu non viva in eterno, allora un altro discorso. Vigliacco, coniglio, quale testa tornerà indietro, è un consiglio. Ma questa volta te ne andrai sul serio, hai un indirizzo e Google Maps sul cielo. Anche se accumulato l'arretrato, non hai tirato le cuoia, non sei ancora del tutto arenato. In questo paese ti senti spaesato, come se il fondo non fossi mai esistito. Demettilo che ci hai poco provato ad andargli incontro, anche se adesso è tardi per un commiato. Che se la vita non è uscita, prova a dirle che è finita. E infilando quella porta direi tutti che era morta, perché se sei la cosa fugge già qualcosa, anche se hai preso una storia. Bambino, certo qualcuno penserà, poverino. Ti guardano bene in faccia, sostieni il suo sguardo, perché la vita rifatta, solo che è stato un codardo, che aveva dei sogni, ma poi si è svegliato in un recinto di polli, con suo becchino, il suo becchino è spaziato, perché ti dice che la vita non ha mai la vita uscita. Solo che preventivato di star meglio nel creato. E certo non è mai...